Sono un po' emozionata perché vedere le cose nuove è sempre una bella cosa. Potresti presentarti? Sì, allora io sono Carla Rivaga, sono dalla Val di Ledro e ho 9, 19, no, aspetta, 74 e 24 anni. 24? Ok. Da quanto tempo sei qua al centro? Io sono qua più o meno da 12 anni o di più forse, più o meno. E come sei arrivata qui? Ah, sono venuta qua perché io avevo un po' problemi a casa e allora mi sono cambiata tantissimo a fare Sì, questo sei venuta qui centro. aperta. Sì. E c'è che scuola frequentavi prima di venire qua al centro? Prima facevo Varone, poi ho fatto le medie, elementari, l'asilo. Sì, dov'è? E sempre del mio paese, in Val di Ledro. Ok, sei felice? Da rimanere qua sì, sono molto felice. Ci vengo anche volentieri. Ma mi trovo, delle volte mi trovo a dire cose di che, perché io sono una di quelle che me la prendo facilmente, perché quando non riesco a capire le cose, allora io dopo subito parto, che mi hanno visto tantissime volte a fare questa cosa.